Dagli incontri nascono sempre nuovi stimoli, nuove idee. Ma quando ad incontrarsi sono dei musicisti, ecco che nasce qualcosa di profondamente diverso. Qualcosa che rimane e aggiunge una nuova nota sul pentagramma. L'esperienza dei magnifici e di destini incrociati in un nuovo programma, nel quale, attraverso i loro incontri, i grandi della musica danno vita a sorprendenti connessioni per creare nuovi mondi musicali. Radio 24 presenta I Magnifici Destini, un programma di Giacomo Zito. Distretto di Santurce, San Juan, Porto Rico. Siamo nel 1984, l'estate è cominciata da un po', e nella capitale portoricana il caldo non smette di attanagliare le strade e la gente. La situazione dentro il Luis A. Ferré Performing Arts Center, dove un mucchio di gente si è accalcata per assistere allo show dei Menudo, è anche peggiore. Il calore a tratti è soffocante e c'è il rischio che qualcuno, soprattutto i più anziani, possa sentirsi male. Ma è un pericolo che la folla non sembra avvertire. Sono tutti troppo eccitati per l'imminente esibizione del gruppo, forse l'orgoglio nazionale di cui i portoricani vanno più fieri. Da qualche anno infatti Menudo, la boy band formata da ragazzini tra i 9 e i 15 anni, sono diventati un fenomeno in tutto il paese, per poi successivamente invadere con la loro musica e i loro balletti il resto del Sud America. Un fenomeno che è letteralmente esploso, andando al di là di qualsiasi immaginazione. Messico, Argentina, Perù, dovunque i Menudo atterrino c'è una folla di migliaia di persone ad accoglierli. Tutto merito di quel diavolo senza coda di Edgardo Diaz e della sua disarmante intuizione. Non c'era niente, quasi nulla per le adolescenti o i preadolescenti. Era come se la musica fosse divisa in musica per adulti e musica per i bambini molto piccoli. Tutto qui. Un ragionamento stringato, semplice, efficace. Il visionario Edgardo Diaz decide di formare un gruppo di ragazzini ritrovandosi qualche anno dopo tra le mani una specie di magica pietra filosofale. Grazie a una buona organizzazione, alla TV e alle ragazzine adoranti, i Menudo si trasformano in un gruppo famoso quanto i Beatles, anche se la loro fama rimane limitata al continente americano. La logica che sta alla base del progetto di Edgardo Diaz è semplice. Al contrario della maggior parte delle band, il nome non è subordinato ai componenti, ma sono i componenti stessi a doversi mettere al servizio del gruppo. L'idea è quella di creare un meccanismo di ricambio per cui, una volta superati i limiti di età, si esce dalla band per essere rimpiazzati. In questo modo i Menudo, almeno teoricamente, potranno durare in eterno. Il graduale successo spinge Diaz e la sua creatura oltre la normale gestione. Nel giro di qualche anno le selezioni per entrare a far parte del gruppo diventano durissime e la disciplina che viene imposta ai componenti è di tipo militare. Il concetto è chiaro, il successo è lì e non si può allentare la presa. Lo show innanzitutto, come si dice in questi casi. È lo stesso pensiero che ha in testa quella sera di luglio del 1984 il nuovo componente del gruppo alla sua prima esibizione. Il suo nome? Ricky Martin. Un giorno io andai da mio padre e gli dissi: papà, voglio essere un artista. Lui mi guardò e mi disse: cosa? Di che cosa stai parlando? Sai, nella mia famiglia nessuno aveva mai pensato di far parte dello show business. Torniamo a San Juan, dentro il Luis A. Ferré Performing Arts Center. La serata è cominciata da un po' e i Menudo come sempre stanno infuocando con la loro performance le folle di adolescenti, mamme e perfino nonne. Anche Ricky è scatenato. Il panico e la paura che provava prima di salire sul palco sembrano svaniti. Al terzo tentativo, dopo due provini andati male per colpa dell'altezza, ce l'ha fatta. Ora è insieme agli altri ragazzi a ballare e cantare ed è una sensazione bellissima. Ricky è come in trance, la musica lo pervade e lui si lascia trasportare volentieri. Ha sempre amato ballare e ora può farlo davanti a una serie di persone che vanno in visibilio. È talmente contento che a un certo punto, durante una coreografia in cui doveva rimanere fermo, continua a muoversi in preda alla gioia e al ritmo. L'errore che commisi mi rimase in testa. tanto che da quel momento in poi non provai mai più a muovermi al di fuori dei passi studiati. Questa era la disciplina alla base dei menudo. O facevi le cose che ti era stato detto di fare, oppure eri semplicemente fuori dal gruppo. Ora facciamo un piccolo salto in avanti. Milano, Fila Forum, 8 maggio del 2000. Una folla numerosa e particolarmente agitata sta aspettando l'ingresso di una star portoricana che da qualche tempo sta incantando il pubblico grazie alla sua musica e ai balli sudamericani che interpreta in chiave pop. Ricky Martin, lui, la star, è dietro le quinte, sorriso stampato e serenità sul volto. Non c'è traccia di tensione ed è una cosa rara anche tra i più esperti. Quando arriva sul palco dopo la consueta ovazione, incomincia una lunga danza che andrà avanti per tutta la durata del concerto. Il particolare è questo: non c'è coreografia, non ci sono mosse studiate. La performance è un ballo lungo e infinito che si alimenta dell'energia stessa di Ricky, senza abbandonarsi ai facili espedienti. Perché tutta la sua carriera è sorretta da un solo grande comandamento: essere sempre se stessi. Io credo che nello show business ci sia semplicità. La trovi se la vuoi trovare. Io sono felice delle persone che ho intorno a me, che lavorano con me e che mi dicono sì quando ho bisogno di sentirmi dire sì e mi dicono no quando ho bisogno di sentirmi dire no. L'onestà è molto importante per me. Questa dichiarazione riassume molto bene il filo che ha tenuto unite la vita e la carriera di Ricky. Un ragazzo che fin da giovanissimo ha dovuto fare i conti con orde di fan e con un'esistenza passata per lo più col filtro dei mass media, sempre lì, pronti a distorcere in qualche modo la realtà. A un certo punto della sua gioventù, Ricky Martin, come abbiamo sentito, decide di diventare un artista. E la vita gli renderà omaggio con una carriera straordinaria. Ma ci vorrà un po' di tempo prima di poter salire su un palco per potersi esprimere liberamente. No es igual, no es lo mismo, no se para un abismo. Vuelve, que sin ti la vida se me va. Oh, vuelve, que me falta el aire si tú no estás. Oh, vuelve, nadie ocupará tu lugar. Nei cinque anni vissuti nella caserma Menudo, Ricky Martin apprende molto. Impara a muoversi con disinvoltura sul palco e a cantare. Impara ad affrontare il pubblico, a coinvolgerlo. Ma soprattutto impara le dure regole del business, quelle stilate da Edgardo Diaz, primo magnifico, primo maestro e anche primo vero banco di prova per il cantante portoricano. Quando nel 1989 il giovane portoricano decide di abbandonare il gruppo, quello che gli resta in mano accanto a una sensazione di enorme soddisfazione è una grande stanchezza. Per lui è tempo di provare qualcos'altro, di tirare un po' il fiato, una scelta difficile. Tanto per farvi un'idea di ciò a cui stava rinunciando ai tempi, ecco lo straziante saluto che la TV nazionale dedica all'ex componente dei Menudo. Ricky Martin, con un futuro por delante che saprà affrontare. Ricky Martin, con un futuro importante che sarà in grado di affrontare, grazie all'esperienza di vita fatta insieme ai Menudo e alle sue innegabili capacità, deve ora continuare il suo cammino. Un cammino il cui esito positivo non potrà mai essere messo in discussione, perché fa parte del suo destino. Ricky, o per meglio dire Kiki, non ti dimenticheremo mai. Ricky Martin in quel momento ha 17 anni e ha messo da parte un bel gruzzoletto. Lo diciamo per chiarezza, tutto qui. Se ne va a New York, ed è quello che farebbe un qualsiasi giovane con un po' di soldi in tasca, ma è un bluff, perché è arrivato lì per iscriversi alla scuola d'arte. Se ne riparte qualche mese dopo, destinazione Mexico City, per prendere parte a uno spettacolo musicale. Ed è proprio lì, in mezzo a quella megalopoli di quasi 10 milioni di abitanti, che si nasconde un altro dei suoi magnifici destini. Quando si dice il destino, Ricky Martin si è appena lasciato alle spalle un duro lavoro per poter scegliersene un altro, magari un po' più tranquillo, in cui non è costretto a girare in lungo e in largo per il Sud America, con orde di fan pronti a tutto. Una scelta plausibile. Non è che volesse rinunciare alla carriera, solo affrontarla con un po' più di traverso. Ma è una speranza destinata a rimanere tale. Già, perché entra in gioco il secondo magnifico di oggi, Luis de Llano Macedo, di mestiere produttore. E un altro Edgar Diaz, un altro che ci vede lungo e che vuole spremere tutto lo spremibile da ciò che gli capita tra le mani. Non senza un buon ritorno per tutti, naturalmente. Succede così. Una sera a Città del Messico, Luis si imbatte nello spettacolo Mama Ama el Rock, dove furoreggia tra gli altri Ricky. Il produttore vede il portoricano e si infiamma. decide quindi di offrirgli un ruolo in una telenovela che sta avendo grande successo, Alcanzar una estrella, afferrare una stella. Ma il titolo fu più evocativo. In un attimo, Ricky Martin è di nuovo nel firmamento. Estrenare mi spesso nuevo, una y otra vez, como llego sol. Se per caso ve lo steste chiedendo, la risposta è sì. Questa è la voce di Ricky Martin che canta in una puntata di Alcanzar de una estrella. E se avete un po' di tempo, andatevi a vedere il look, fa una certa impressione. Ricky Martin con una chioma castana fluente che gli arriva alle spalle. Inutile dire che la telenovela è un successo. La storia degli amori e degli intrighi intorno a una band diventa un culto, tanto che viene portata addirittura sul grande schermo. Ricky verrà aggiunto al cast per la seconda stagione. A ben vedere non c'è nulla di incredibile in questa storia. In fondo, Luis De Llano ha semplicemente fatto un ragionamento azzeccato. Per interpretare un giovane che vive e suona in una band famosa, ha scelto qualcuno che ha vissuto in prima persona questa esperienza, Ricky Martin, per l'appunto. Il cantante portoricano, da parte sua, ha finito per accettare il suo destino. Non è il momento del riposo, evidentemente, sarà per un'altra volta. Ora bisogna andare fino in fondo a questa storia per poter coronare il proprio sogno, quello di diventare una star della musica. Mi ricordo che quando ero piccolo ascoltavo sempre dischi di musica rock e mia madre si arrabbiava anche con i miei fratelli, ovviamente. Diceva: ne ho abbastanza di questo rock, cosa diavolo vi è preso, ma voi sapete qualcosa dei suoni latinoamericani? E noi in coro: eh? No, quella è musica per tutti. E lei rispondeva: ah sì? Davvero sarebbe musica per tutti? E così ci prendeva per l'orecchio e ci portava a un concerto di Celia Cruz. Quando nel 1994 varca le porte degli studi dell'etichetta della Sony che si occupa di musica latinoamericana, Ricky Martin è un po' nervoso. Sta per registrare il suo primo album da solista. Niente più gruppi o coreografie studiate per ore con altri reclusi. Niente più regista che dirige i sorrisi o manager che ti tratta come un bambino con un numero scritto sulla schiena. Solo lui e la sua musica, il suo ritmo, uno strano miscuglio grazie a Mamma Nereida. Il risultato è un album che porta il suo nome. È tutto quello che ha per ora. Il resto deve ancora venire. Tu recuerdo sigue aquí con un aguacero. Rompe fuerte sobre mí. Ay, pero a fuego lento. Quema y moja por igual. Ya no sé lo que pensar. Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal. Ero così eccitato all'idea di ritornare nel mondo della musica che non mi importava niente delle condizioni in cui lo feci. Tutto il duro lavoro, la passione che avevo messo negli anni precedenti finalmente cominciava a dare qualche frutto. E la musica tornava ad essere il centro della mia vita, in modo definitivo. 2 anni dopo l'omonimo album a cui segue il lungo tour, tanto per non perdere l'abitudine del contatto col pubblico, esce Me Amarás, seconda fatica del portoricano. Sono i primi passi di un timido ragazzo che sta tentando di scrollarsi di dosso un po' di quella polvere di stelle che gli è piovuta addosso durante l'adolescenza. Ricky Martin non è ancora Ricky Martin. Per ora si accontenta di provare a fare ciò che ha sempre desiderato, da solo. Anche se ancora in balia del vento e basta una soffiata per spostarlo. Servirà tutta la forza e l'energia di un grido per arrivare ad essere ciò che vuole, un urlo liberatorio e potente, come la curva affilata disegnata da una mano che taglia l'aria durante un passo di danza. L'urlo che lo renderà celebre in tutto il mondo. Ricky Martin sta aspettando con ansia di poter liberare il proprio urlo. È lì che carica i polmoni e li riempie di aria in attesa di poter sfogare tutta la sua potenza. Sarà quello il segnale. Time to live, time to love, time for fun, you wanna come here. magnifici destini. Potete provare a lasciare spazio all'immaginazione, ma ve lo diciamo subito, sarebbe un peccato. Quello che avete appena sentito è l'audio di una scena tratta dal telefilm General Hospital, famoso e sterminato melodramma americano nei cui eterni intrecci a un certo punto rimane impigliato un cameriere cantante che di nome fa Miguel Morés. Si tratta di lui, del nostro ex bambino prodigio, Ricky Martin, che in questa scena si diverte a mostrare i pettorali durante una doccia infuocata con una delle sue belle di turno. Una gioia per gli occhi dei fan, ma la verità è che ancora non ci siamo. Dopo i primi due album da solista, Ricky è tornato indietro, si è lasciato affascinare ancora una volta dalla sua vita da ragazzo e non ha resistito alla tentazione di recitare nuovamente in TV. Ma il rifugio è temporaneo. Nel 1995, infatti, Ricky Martin rientra negli studi di registrazione deciso a fare sul serio questa volta. Vuole provare a finirla con queste ballate latinoamericane che lo cullano, certo, ma gli impediscono di muoversi in libertà come lui vorrebbe. Vuole finirla anche di prendere ordini, in un certo senso, perché non ne sente più il bisogno. La storia di Ricky Martin, in fondo, è tutta qui. I manager sono scettici, non pensano che la decisione di mischiare i generi della sua terra con del buon vecchio pop e magari un po' di disco sia una buona idea. Ma naturalmente si sbagliano. Non hanno tenuto conto dell'urlo, quel grido che Ricky libera nell'aria prima di sfogare tutta la sua musica. Si es Maria, blanca come il dia, però es veneno si te quieres enamorar. Así es Maria, la caliente e fria, che si te la bebes. Maria mi ha aiutato a conoscere meglio me stesso. Mi ha guidato in un certo senso. Noi non ci aspettavamo che la canzone potesse avere un simile successo. Maria è il colpo di scena che non ti aspetti. Come fare tombola con una sola cartella, come trovare un ago d'oro in un pagliaio. È il cavallo di Troia che spinge Ricky oltre i confini del suo amato Sud America. Un successo internazionale. La canzone va fortissimo, soprattutto in Europa. Gli ascoltatori vengono rapiti dal ritmo incalzante e trascinante che la compone e dalle piroette vocali del portoricano, che canta e balla con gioia e un focoso senso del ritmo. A vederlo nel video, in giacca di pelle nera, mentre sfoggia il suo ardore muovendosi in una strada cittadina, non sembra neanche un lontano parente del tenero capellone timido e romantico che era apparso fino a quel momento. Qui c'è lo zampino di un magnifico destino, evidentemente. Si chiama Luis Gómez Escolar ed è un compositore e un produttore. Una carriera infinita passata ad arrangiare e comporre brani, uno di quelli che ha saputo sfruttare al meglio quel forte legame che si è creato tra l'Europa e il Sud America nella musica. La canzone che state sentendo, il riadattamento di Questione di Feeling in spagnolo con Tiziano Ferro, che fa le veci di Cocciante, è una delle sue creature. Sono tanti gli artisti con cui Luis ha collaborato. Miguel Bosé, Enrique Iglesias, Luis Miguel, i nostrani Ramazzotti e Carrà. E naturalmente Ricky Martin. Con Ricky, Luis mette sul tavolo tutta la sua competenza, riuscendo nel tentativo di allargare il respiro dei suoi brani, adattandoli per un pubblico più vasto. E la carriera di Ricky decolla. La bomba Ricky Martin esplode alla fine degli anni 90 in un gran baccano di percussioni e fiati che ne annunciano lo sganciamento. Nel giro di un paio di anni invade letteralmente il mondo con la sua carica, lasciandosi dietro una lunga scia di fan strepitanti e in preda all'isteria. Vince il suo sorriso, la sua energia, quel modo inimitabile di muoversi e invitare al ballo, il ritmo trascinante in cui si viene coinvolti. Nel 1998 esce l'album Vuelve e pochi mesi dopo Ricky Martin si esibisce davanti alla platea più grande che avesse mai immaginato, più di 2 miliardi di persone. Powerful header by Zinedine Zidane. France lead, 27 minutes gone. Leonardo couldn't get to him, Taffarel stayed on his line. È il 12 luglio 1998. Nello Stade de France di Saint-Denis, Francia e Brasile si affrontano per decidere chi solleverà la Coppa di Campione del Mondo di Calcio. Per la cronaca, la Francia di Zidane e compagni spazzerà via il timido Brasile del claudicante Ronaldo con una sonora vittoria. Ma quello che ci interessa avviene qualche momento prima del match e l'esibizione di Ricky, il cui singolo La Copa de la Vida è diventato la canzone simbolo della competizione. In poco più di 2 anni, il portoricano è salito sul tetto del mondo e adesso metà della popolazione mondiale si muove seguendo i suoi passi e alzando le mani con lui. È un trionfo. Trionfo che avrà il suo brindisi qualche tempo dopo, quando il singolo verrà premiato ai Grammys e Ricky Martin omaggerà la platea con una scatenata esibizione. Per me è molto importante che gli artisti si impegnino in iniziative a scopo sociale. Nel mio piccolo sono impegnato con l'organizzazione che si batte per i bambini affetti da AIDS, così come nell'American Cancer Society. Ho anche viaggiato e visitato le case di accoglienza per i bambini che hanno subito violenze, abusi. Io sono grato a Dio per quanto mi ha dato e in qualche modo io voglio cercare di ridare agli altri la mia fortuna. Di tutti i problemi, quello che mi tocca in modo particolare è l'AIDS. A Puerto Rico, una società di cereali stampa la mia faccia sulle scatole dei loro prodotti e tutti i soldi che guadagno da questa promozione sono destinati ai bambini malati di AIDS. Sfortunatamente l'ignoranza è ancora l'aspetto più difficile da combattere. Mentre il mondo si appresta a salutare il XX secolo e la minaccia del Millennium Bug cala sulla popolazione, Ricky Martin è al settimo cielo. Ormai è un artista affermato e, come molti di loro, sfrutta la propria immagine per regalare qualcosa di buono e utile al paese che gli ha dato i natali. Per le star internazionali è quasi un passaggio obbligato. Prima o poi, una fetta del successo e del denaro che riescono a guadagnare finisce in qualche operazione di beneficenza. E così è per Ricky, che non ha mai nascosto l'orgoglio delle sue radici. Ora tutto il mondo lo conosce, tutto il mondo è pronto a scatenarsi a un suo segnale. Il mio obiettivo tutte le mattine quando mi sveglio è tenere i piedi per terra. È in assoluto la cosa più importante per me, perché sai, con tutta questa gente che ti dice che sei bravo nella musica, che sei bravo quando sali su un palco, che sei bravo, che sei bello, è possibile che uno cominci a volare un pochino troppo in alto. Può succedere. Ma se ti spingi troppo in alto c'è il rischio che tu ti faccia davvero male se cadi. Quindi sia spiritualmente che a livello emotivo, è importante che uno rimanga con i piedi per terra. A pensarci bene, Ricky Martin è sempre stato solido. Non una roccia, non un marmo, certo, ma solido sì. È sulla cresta dell'onda da quando ha 12-13 anni e tranne qualche breve intervallo il volume non si è mai abbassato. Ha girato in lungo e in largo, prima la sua terra, poi il resto del mondo. E ha dovuto in qualche modo trovare un compromesso tra la sua vita privata e quella pubblica. È tutta roba che farebbe vacillare anche le menti più fredde e distaccate. Ma l'obiettivo, la volontà di essere in tutto e per tutto se stesso è sempre lì, davanti ai suoi occhi in attesa di un compimento. E il mezzo per arrivarci, naturalmente, è la musica. Io spero che nei prossimi 10 anni la mia musica sia diversa da quella che ho suonato fino ad ora. Perché in caso contrario vorrebbe dire che c'è qualcosa di sbagliato. Quello che sto cercando di fare è prendermi dei rischi. Perché la musica deve essere diversa da quella che si trova nei miei album precedenti. E questo accade solo rischiando. Chi ha orecchie per intendere, intenda. Se è vero che Ricky Martin vuole prendersi dei rischi, è pur vero che questi rischi devono essere un minimo calcolati. Stiamo parlando di musica, non siamo sull'orlo del precipizio in attesa di buttarci senza paracadute. Però la vita di un artista di fama è piena di piccoli tranelli pronti a trasformarsi in gigantesche buche senza fondo. E lui questo lo sa bene. Ma la vita è anche piena di risorse. Basta saperle riconoscere. Como un hombrón de sosa. Es magnifici destini. Sto lavorando con produttori eccezionali. Desmond Child, Draco Rosa su tutti, poi Emilio Estefan e altri, Walter Haight. È come un sogno per me. E poi il risultato è incredibile. Sebbene io lavori con tanta gente, ogni canzone ha... È come se ci fosse un legame tra tutte le canzoni. E penso che questo legame sia dato dal suono scintillante delle percussioni. Siamo arrivati all'ultimo magnifico destino. Ultimo perché dopo di loro e fino ad ora Ricky Martin ciò che gli serve lo ha sempre trovato dentro di sé. Dopo Edgardo Diaz, Luis De Llano e Luis Gomez Escolar, che ancora lavora con lui, è il turno dei sopracitati Desmond Child e Draco Rosa. A loro spetta il compito di traghettare il cantante portoricano verso l'ultimo e decisivo salto verso il successo globale, il mercato americano. Desmond è un camaleonte. La prima volta che ci incontrammo scrivemmo insieme Angel. Ci impiegammo poco meno di 2 ore a farla. Non mi sto prendendo in giro, davvero. Quel ragazzo era un fottuto genio. Questo è quello che pensa di Desmond Child niente meno che Steven Tyler, bocca e voce degli indiavolati Aerosmith. Tyler riassume in poche parole la vita di Desmond, uno che è stato in grado di cavare ragni da ogni buco in cui ha infilato la mano. Probabilmente c'entra qualcosa il fatto che sua madre, cubana, fosse una songwriter di professione. Il fatto è che Desmond ha davvero messo lo zampino in tantissime grandi canzoni. Volete un esempio? Eccolo! Ne approfittiamo un po', visto che l'occasione è ghiotta. Oltre a I Was Made for Loving You dei Kiss, Desmond aggiunge la sua firma a hit del calibro di You Give Love a Bad Name dei Bon Jovi, What It Takes e Crazy degli Aerosmith, Poison di Alice Cooper e All Before I Die di Robbie Williams. C'è davvero da levarsi il cappello, altro che... Per Ricky è come aver trovato un asso nella manica. Diverso è il discorso per Draco Rosa. Lui conosce Martin da un pezzo. Sono anche stati compagni di cella in quella prigione dorata che erano in Menudo. Sono amici d'infanzia. Draco ha fatto un po' di tutto. Ha scritto, cantato, composto, interpretato. E quando è stato il momento di dare una mano all'amico, non si è tirato indietro. Il piano di Ricky, Desmond, Draco e gli altri è semplice. Tirare fuori una hit in inglese. Ricky Martin è sulla breccia da un pezzo e questo è il momento perfetto. La sua fama ha quasi scavalcato ogni confine e la sua musica riesce a far ballare milioni di fan. Manca solo la ciliegina sulla torta, la consacrazione del portoricano come re del Latin pop. Per questo c'è bisogno di una canzone forte, una canzone che riassume in poco meno di 4 minuti l'essenza del suo interprete. Nel 1999 esce l'album Ricky Martin, lo stesso titolo autocelebrativo che era stato usato per il primo vero debutto da solista del portoricano. Come a dire, ehi, sì, le cose saranno anche cambiate, ma certe sono sempre le stesse. Il singolo che trae nel disco è Living la Vida Loca, un brano dal titolo spagnolo cantato in inglese, e la perla che Desmond e Draco volevano regalare a Martin. Ed è fatta. C'è anche lo zampino di Luis Gomez Escolar, se per caso qualcuno se lo stesse chiedendo. Grazie all'aiuto di 3 dei suoi 5 magnifici destini, Ricky Martin spicca il volo verso la libertà. Il suo secondo omonimo album vende più di 20 milioni di copie, un risultato incredibile. Living la Vida Loca rimane in testa alle classifiche statunitensi per più di un mese. È fatta. Il timido bambino tutto chioma e sorrisi languidi ha lasciato il posto a un provocante cantante pop sudamericano, in grado di far muovere bacini a ogni latitudine. A un certo punto però Ricky Martin si è dovuto fermare. È successo qualche anno fa dopo un altro paio di album, un tour mondiale e un disco Unplugged. Lo ha fatto perché, come potete bene immaginare, ne sentiva il bisogno. Quando la tua vita è scandita dalle luci della ribalta che non smettono mai di seguirti, è normale a un certo punto cominciare ad avvertire un certo fastidio. Ricky la pace se l'è andata a cercare in un posto sicuro, forse il posto ideale. Ma io sono stato fortunato, la verità è che ho avuto una grande possibilità, quella di andare in un paese meraviglioso come l'India, con un paesaggio fantastico dove puoi trovare tranquillità anche semplicemente nel salotto di casa tua. Devi soltanto aprirti, essere aperto. La cosa che veramente devi fare è capire che la pace è una necessità. La vita era troppo veloce per me, ero così attaccato agli applausi, all'adrenalina e ho pensato che fosse arrivato il momento di fare un passo indietro, di scrivere musica. Sentivo che ne avevo bisogno anche per ritrovarmi. Ricky è tornato dall'India con una nuova tranquillità, una nuova sessualità e una nuova produzione, la sua autobiografia. Naturalmente, tra tutti, l'argomento più discusso è stato il suo outing. È un vecchio vizio del mondo delle celebrità quello di venire inghiottiti dal gossip e lui non può certo rappresentare un'eccezione. La realtà è che tutto questo, il viaggio, il libro, la pace, l'amore, rappresentano il tentativo più ambizioso per arrivare al traguardo che il portoricano si era prefisso, quello di sentirsi libero. Ora Ricky Martin lo è, o quantomeno lo sembra davvero, visto il sorriso felice e soddisfatto con cui condisce ogni sua uscita da qualche tempo a questa parte. Ora, quando parte la musica, non deve più sforzarsi di ricordare i passi studiati nella preparazione della coreografia. Ora può semplicemente cantare, ballare ed essere se stesso. Who am I? Chi sono io? I am the drums. Io sono la batteria. I am the horns. Io sono i fiati. I am the percussion. Io sono le percussioni.